sempre ammesso possono arrivare. Non capirebbero le pene nei miei rimorsi, e non concesso posso raccontare. E c'è un silenzio che muove la barca, e la mia ansia è già a metà, che la carena del cuore si sbatte, nel mio petto affonderà. A questo punto mi conviene aspettare un nuovo giorno e quello che verrà sarà il profumo delle onde, un cielo irreale, forse un miraggio blu di libertà. A questo punto mi conviene sparire ed accettare il mondo che non sa, che non importa dove approdo o vado a finire, col mio tormento nella stiva o come un tronco arreso alla deriva, chi lo sa. Inutile puoi stare tutte le vele, il solo vento che mi può aiutare e la speranza che mi scuffia e gonfia le vene, un solo soffio mi farà partire e qualche goccia mi bagna la bocca e la mia sete attenuerà. E piogge sale, ma questo mi tocca per sfuggire alla realtà. A questo punto meglio un nodo nel cuore, che la tempesta presto scoppierà. Guarire in fretta e rinunciare ai sogni e all'amore, il giusto prezzo per la libertà. A questo punto mi conviene tradire ogni ideale mio di verità e trascinare questa chiatta senza motore verso una grotta che respira o sulla guzza roccia che mi sfida. Si vedrà. Viene sparito.